sapete, non gli serve l'aiuto di nessuno. Quando il vento mostra il suo vero volto, lui parla alle foglie amiche e rumorose, e per un sorriso ti regala una poesia, un pezzo di vita, e poi scappa via. Cosa parlate se non sapete, non gli serve l'aiuto di nessuno, lui scrive di notte mentre la gente dorme, nelle sue tasche solo fogli di carta, ricordi di vita e di follie vissute, storie di amori e di stelle perdute. Sono belle le poesie di Enrico, che parlano di mare e di polene vive, di sogni bianchi e di acque profonde, di piccole barche contro grandi onde. Ma come sono belle le poesie di Enrico, che parlano di lui. Parlate se non sapete, non gli serve l'aiuto di nessuno, quando l'inverno mostra il suo vero volto, all'angolo della strada tende la sua mano, e per un soldo ti regala una poesia, un pezzo di carta e poi scappa via.